24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. All'interno esce Silvio dalle sue spalle, che gli appoggia amorevolmente la mano sulla spalla, e tutti sentono il Padre Eterno che dice: Silvio carissimo, mi è piaciuta moltissimo questa tua idea di trasformare il paradiso in una società per azioni e di quotarlo in borsa. C'è una sola cosa che non capisco: perché io dovrei fare vicepresidente? È vecchiotta, questa Silvio Berlusconi l'ha raccontata almeno 47-49 volte, insomma, di fare il vicepresidente, far fare il vicepresidente al Padre Eterno nella società per azioni Paradiso. Indovinate un po' chi dovrebbe fare il presidente. Va bene, buongiorno cari italiani, sono le 6:31 minuti e questo è 24 mattino e che dire, si apre oggi la 47esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 47esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, che sta cercando disperatamente, alza i telefoni, compone numeri, cioè quando succede così vuol dire che qualcuno non si è svegliato. Qualcuno non si è svegliato. Questa è la sacrosanta verità. Va bene, poco male. Saluto Carmelo Lauricella, che trovo in regia. Che ci fai qua? Peter Bescapè è di notte. L'hanno messo di... Cosa vuol dire l'hanno messo? È di notte. L'hanno messo di notte, mamma mia, succedono delle cose, ci stanno prendendo a pezzi, a brandelli, e ci stanno smontando. L'Alpino l'hanno messo in turno di notte, io tremo, comincio a spegnere i cellulari quando esco da qua, perché non si sa mai. Allora cari italiani, 349-238-6666 anche il numero per i vostri messaggi, se volete il Parlamento può aprire. Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, come sempre offre Nicole Minetti per aprire la settimana in simpatia. Allora, chi si è svegliato certamente è il nostro Federico Novella, che saluto, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Sentite che voce squillante, lui che sta andando a Mediaset per condurre Mattino 5. Andando a lavorare, sono sveglio con il corpo ma non ancora con la mente, però devo dire questo. Sono cose che capita. Allora, stiamo chiamando Vladimir Luxuria. Ma c'ha il cellulare spento, non si sa. Facciamo un appello pubblico: se qualcuno può sbrandare Vladimir Luxuria, ci faccia una cortesia. Al momento il cellulare è spento. Come va Federico? Ma va abbastanza bene, c'è un po' di traffico oggi in tangenziale, devo dire. Sono le 6:30, dove va la gente? Ma io non lo so, poi in ogni macchina c'è una persona sola, sai quelle frasi banali che però sì, a quest'ora fanno sempre piacere, no? Non lo so, a quest'ora evidentemente sono tutti grandi lavoratori. E che dovrebbero organizzarsi alle 6:30 del mattino in quattro? Sì, dovrebbero fare una sorta di condivisione, ecco, sì, diciamo così. Cioè. E poi ti volevo dire che insomma questa mattina parleremo di questo caso che ci ha divertito per tutto il fine settimana, e cioè le frasi di Moretti sul suo stipendio, amministratore delle Ferrovie dello Stato, con annessa risposta piccata del suo diretto concorrente, cioè di Della Valle. Della Valle, ma certo. Allora, stipendio di Moretti l'ho recuperato qui, ma tu lo saprai già a memoria. 800, aspetta, dove cavolo è finito? Tu lo sai a memoria? 800 e passa, tu hai la cifra 8, precisa 8, al centesimo. Insomma, qua oggi il Corriere della Sera lo scriveva al centesimo. Comunque, sì. 870 8.000. Eccolo qua, 873.666 euro l'anno. 666, numero della bestia. Vabbè, insomma, 873.000. Però attenzione, non facciamo i soliti proclami populisti a dire. Certo che è tanto, per chi ci sta ascoltando dice: mannaggia, 873.000. Non posso fare proclami populisti, me ne vado però. No, allora subito il proclama populista di Federico Novella. Forza, avanti, avanti. No, non voglio essere populista. Diciamo che però uno può anche essere d'accordo con Moretti. L'ha detto con dei toni un po' sbagliati, è un po' deragliato, se vogliamo usare una metafora ferroviaria, perché in tempi di sacrifici questi toni qua, allora me ne vado, sembra che uno voglia pensare solo alla roba sua, così. Ma no. Oggi tra l'altro c'è, te lo segnalo, così ti faccio una rassegna stampa, così quando arrivi in redazione è tutto a posto. Sul Corriere della Sera Sergio Rizzo fa appunto una pagina dedicata a questi 873.000 euro, dicendo che le dichiarazioni di Moretti ora sono questi, ma io voglio dire, posso andare anche in pensione, ma dove trovo per esempio il capo delle risorse umane di un'azienda come questa se non gli do 400-450.000 euro l'anno? Me lo dicano, l'alternativa è che si chiude questa. Oppure ha fatto anche una frecciata al suo predecessore Elio Catania: io ho risanato le ferrovie, altrimenti si continuava a rischiare di pagare 2 miliardi di perdite all'anno, come dire, quelli che c'erano prima di me. Sì, quelli che non c'erano non erano in grado, evidentemente. Però al di là di Moretti è evidente che i dirigenti italiani, credo lo dica l'OCSE, guadagna, i dirigenti pubblici, manager pubblici italiani guadagnano credo quasi il doppio della media europea. Sono bravi il doppio della media europea? Non lo so. Lo stesso Rizzo l'altro giorno scriveva che la famosa decurtazione degli stipendi pubblici decisa da Monti, quella per cui non potevi guadagnare più del presidente di Cassazione, se non sbaglio, non è mai entrata in vigore. 7.000 aziende, solo in due si sono adeguati. Allora, tra l'altro, se siano i più bravi non lo so. Secondo i criteri di valutazione, sempre oggi il Corriere della Sera scrive, il 90% dei dirigenti pubblici hanno una valutazione eccellente. E chi gliela dà però la valutazione? Se la danno, è chiaro, no, se la danno. Se funziona questo, come gli insegnanti, se la danno da soli, spero che non funzioni così. Insomma. Se la dà, questa è la verità. Se la danno, se la cantano e se la suonano. Va bene, adesso ci siamo subito inimicati, dirigenti pubblici, che salutiamo tutti con grande affetto. Costui è Federico Novella, è pure juventino, quindi... Un saluto. Buona giornata a tutti. Incontrerai almeno un paio di dirigenti pubblici adesso in tangenziale che ti faranno deragliare con un click in mano, probabilmente. Esatto. Comunque i dirigenti pubblici, continua Renzi a dire, vada avanti, per carità, ce l'ha anche con la Camusso e con Squinzi, con Confindustria, a dire mi interessano le famiglie. Stai buono che stai parlando sulla radio di Confindustria, ti veniamo a prendere, caro Federico. Fai bravo, come vedi qua siamo liberi di dire tutto quello che vuoi. Allora, vogliamo sentirlo? No, Renzi ieri al TG1. A me interessa il consenso delle famiglie italiane, non di quell'associazione e dell'altra. Ho detto strana coppia perché mi fa un po' sorridere. Sono 20 anni che guardando il TG1 la sera vedo Confindustria e sindacati arrabbiarsi perché ai politici danno più soldi e alle famiglie e ai lavoratori meno soldi. Ora, una volta tanto che abbiamo cambiato e abbiamo iniziato a ridurre il numero dei politici, a restituire i soldi alle famiglie e abbassare l'IRAP, speravo che gli imprenditori e i sindacati fossero d'accordo. Niente, sono arrabbiati anche stavolta. Pace, ce ne facciamo una ragione. Eccolo qua. Oh, questo sta diventando il nuovo mantra. Ce ne faremo una ragione, no? Di tutti, no? Ce ne faremo una ragione, il nuovo stai sereno. Esatto. È il nuovo hashtag. Cioè, stai sereno, adesso ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Però sarà anche divertente, insomma, questa coalizione tra Confindustria e Camusso, perché sennò erano un po' tutti pro-renziani, no? A parte la Camusso, che è sempre stata un po' critica. Sembravano tutti pro-renziani, anche Landini, anche in politica, anche Berlusconi non mi sembra che stia facendo ancora un'opposizione dura, e quindi se non altro ci sarà un contraltare e ci sarà da divertirsi, mettiamola punto di vista. Infatti oggi Susanna Camusso anche sulla stampa fa un'intervista, dice le posizioni di Renzi indeboliscono la democrazia. Vabbè, adesso forse così mi sembra un po', però ognuno lotta dura senza paura. A proposito della questione dei dirigenti, Renzi si è espresso anche su questo, non solo, tu hai citato Della Valle, vabbè, ma lui è socio di NTV, come la volete chiamare, insomma, l'altra società dei treni, e quindi con Moretti, insomma, ingaggiato una battaglia già da anni, no? Sì, però, insomma, si è fatto portatore di una Vox Populi, no? È chiaro, dagli al dirigente pubblico. Alessandro, non mi si apre la sbarra di Cologno, forse qualcuno, qualche dirigente pubblico è intervenuto. Aprite, per favore? Sì, potete aprire. Vediamo se si apre. Vediamo, ecco, potete aprire gentilmente, passaci se no. Hanno degli strani facce. No, si è aperta, miracolo. Si è aperta, fantastico. Sono salvo per oggi. Anche oggi il posto di lavoro di Federico Novella è salvo. Accendiamo va bene. Sentiamo Renzi sui dipendenti. Su chi? Su Moretti, in pratica. Non è possibile che uno che fa l'amministratore delegato guadagni fino a 1000 volte in più di quello che guadagna l'ultimo operaio. Quando c'era Adriano Olivetti, il grandissimo Adriano Olivetti, il rapporto era 1 a 10. Bene, torniamo a un principio di giustizia sociale. Dare un po' meno a chi guadagna milioni e cercare di rimettere in moto l'economia del ceto medio e di chi non riesce ad arrivare alla quarta settimana. Noi non molliamo. Eccolo qua, noi non molliamo. Qualcuno mi scrive un pizzino così, caro Federico. La vera notizia è che questa è una frase, ha detto qualcosa di sinistra. Matteo, non dirò mai chi mi ha scritto questa cosa, perché sennò... Quale sarebbe la cosa di sinistra? Questa della equità sociale, cioè facciamo guadagnare meno uno, facciamo il rapporto di Olivetti, 1 a 10 rispetto agli stipendi degli operai. Facciamo in modo che i ricchi piangano. Insomma, questa è la cosa. Però insomma non è solo sinistra, perché insomma è anche una questione di risparmio della spesa pubblica, e quando si parla di risparmiare per lo Stato è una cosa anche un po' di destra. No, è chiaro, ma questo sì. Allora facciamo una previsione, visto che è la settimana, la 47esima, per la legge elettorale, questo si vedrà al Senato. Ma pare che sia la settimana decisiva. Mi prendo in giro da solo, per le province, cioè o si fa questa settimana oppure si va al rinnovo di tutti i consigli provinciali che scadono peraltro a marzo, quindi ti vedo già entusiasta sul tema, no? Cioè, io mi aspetto le risate finte come a Striscia la Notizia adesso, no? esatto si potrebbero mettere. È come il ponte di Messina, secondo me, l'abolizione delle province, sono molto in dubbio, abbastanza in dubbio, altro che. Insomma, Federico Novella vuole mantenere le province, annunciamolo. Esattamente così. Annunciamolo a tutti, così ovviamente Federico Novella lo trovate. Ecco, vedi, così acquisiamo un po' di spessore, vedi? Ecco, esatto, le famose risate non sono un po' come quelle di Striscia, però più o meno, insomma, sono delle risate più o meno finte. E poi, è la settimana anche de che? No, basta, a livello politico, diciamo, questo sarà quello che succederà. Facciamo così, Federico, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. C'è la segreteria, ti hanno aperto? Sei già al trucco? Sì, mi hanno aperto, no, non sono ancora al trucco, sono ancora fermo in macchina. Sono il primo praticamente ad essere arrivato dopo i guardiani, quindi fantastico. Posso aspettare in tranquillità. Diciamo. Apri Mediaset, apri, ma scusa, Federico... Ho le chiavi per aprire. Invece Federica Panicucci arriva quando? Federica arriva più o meno fra una ventina di minuti. Mi aspetta a braccia aperte, con naturalmente. Sarà molto contenta tua moglie di questa frase. Andiamo al traffico e rientriamo. Andiamo un attimo. 24 mattino. L'antibiotico per l'Italia si chiama Grillo. Milan, sono Silvia da Milano. E voglio dire che altro che zappa, minestre scondite, mattarelli e forconi, L'idea veneta di staccarsi da questo paese indecente e irrecuperabile non solo non è sbagliata, sarebbe da imitare. Dividersi e meglio ancora unirsi ai paesi confinanti, la Lombardia alla Svizzera, sarebbe un vero sogno e la soluzione di tutti i nostri problemi. Caro Milan, il punto è sempre quello per le case in affitto per i deputati, per i loro uffici. Sono inutili tanti deputati e tanti senatori. Il punto è sempre quello. Ma voi che parlate alla radio non avete il coraggio di dirlo apertamente a tutti noi che vi ascoltiamo la mattina. Pochi ma buoni. In America 200 senatori mandano avanti un paese che ha il quadruplo degli abitanti d'Italia. È il governo di Renzi, il governo color latte, è il governo di Renzi, il governo sopra i tetti, e quegli 85 euro tu tienti li stretti. Cottarelli proposi tagli dopo tanti sbadigli. Qualcuno pensò si trattasse di tigli, ad altri sembravano abbagli della crisi figli. Per Matteo erano giganteschi gigli, ma apparivano vermigli. Tagliarono quinti tagli, assunsero altri figli, piantarono i tigli e si dissero puri come verginali gigli. Viva l'Italia! Vabbè, ma insomma, ma qui ci sono canterini, poeti, santi, navigatori. Siamo con Federico Novella, eccoci qua. Federico, allora, il cellulare di Vladimir Luxuria è spento, però se tu sei d'accordo, siccome c'è il messaggio, lo mandiamo in diretta e gli lasciamo un messaggio in diretta dicendo che la stavamo aspettando qua. Ti va? Dai, allora, vabbè, lo faccio io? No, vabbè, aspetta, adesso vediamo insieme, non so. Vai, vai, insieme. Intanto insieme, adesso Miriam fa il numero di telefono. Mettiamo segreteria, servizi di segreteria, ecco, telefonica. Un attimo. Ciao, lascia un messaggio dopo il beep. Hi, leave a message after the beep. Vai tu, Federico. Sì, allora, buongiorno Vladimir, volevo dirti che ti stavamo aspettando, ma evidentemente non ti sei svegliata. La prossima volta fai come me, punta almeno due sveglie. Esatto, lui è Federico Novella, io sono Alessandro Milan. Vladimir, ti stavamo aspettando, due sveglie le punto anch'io, e quindi alla prossima comunque. Ciao Vladimir, ciao tu. Ciao Vladimir, ciao. Ben svegliata comunque, ciao, grazie, eccoci qua. Sì, sì, mi ha messo un po' a disagio il messaggio. Il messaggio fatto da lei, proprio da lei, non era registrato. È per far vedere che lei, non abbiamo lasciato il messaggio a Mario il Fabbro di certamente. Casa. Era proprio Vladimir Luxuria. Allora, vogliamo sentire anche Beppe Grillo, uno che, come va secondo te il Movimento 5 Stelle? Potrà? Guarda, come va? Allora, secondo me adesso in questo momento è ancora in fase discendente, anche se ha rallentato un po' la discesa, perché il ricordo dei fuoriusciti eccetera si sta allontanando, e va come al solito, nel senso che più il governo lavora male e più Grillo guadagna. Grillo è uno che guadagna se lavorano male gli altri, questa è la mia opinione. Benissimo, allora Federico Novella è così su Twitter, cari amici del Movimento 5 Stelle, per tutte le critiche. Sto diventando il pericolo pubblico numero uno, dai. E le stroncature, voi sapete, Federico Novella ha criticato la linea del Movimento 5 Stelle. Guarda che i grillini non perdonano. Sapevatelo, e quindi così lo trovate su Twitter se volete, per dire tutto ciò che pensate liberamente. Un messaggio a mia moglie, non so se arriverò a casa. Non so se si riapre la sbarra all'uscita. Esattamente. Allora sentiamo Grillo, che è andato da Mentana venerdì a fare un'intervista. Eccola, la prima volta, una delle prime volte che fa un'intervista. Grillo. Poverino Bersani è stato mandato al massacro dai suoi e è caduto di nuovo nella trappola di non considerarsi, perché lui non voleva governare con il Movimento 5 Stelle, che eravamo la prima forza del paese e la forza nuova che arrivava. fatta. Voleva dei senatori, dei voti, per votare lui, l'ho anche detto in televisione. Mandato al massacro sapendo che dicevamo di no, perché la mia campagna politica era ma via tutti. Ma perché l'ha fatto allora? Perché cioè, l'hanno mandato? A me, come perché a tanti dietro, altri, dietro. È sembrato chiaro. Lei in campagna elettorale l'ha detto l'hanno chiaramente, fatto, non governeremo mai con nessuno. L'hanno fatto per mandarlo al macello, perché dietro c'era Gialletta e io ho le prove. Ah, c'ho le prove, ecco. Le prove. Le prove erano che lui era andato a una cena all'ambasciata inglese e è andato e sopra c'era l'ambasciatore, a un certo punto gli ha detto c'è sopra Letta che lo vuole incontrare, questo è un mese. E ovviamente tutto smentito da tutti, Letta che dice ma ero lì, sì, ma è per un altro motivo. Cioè, che prove sono? Non lo so, mi risulta un po' difficile pensare che adesso alle ambasciate britanniche fanno le carambate, cioè prendono due politici e li fanno salire a due piani diversi. Però era bella questa idea del complotto, cioè il governo formato all'ambasciata britannica, un film di... È una roba da... esatto, sì, una roba fantapolitica, interessante, affascinante, faccio fatica a crederla, devo dirti la verità. Era un ottimo inizio di un film di James Bond, mi sembra, mi veniva così. Vabbè, sempre Grillo che ce l'ha con le banche, le banche governano, sempre le banche. I giochi sono sempre fatti in Italia, non succede nulla per caso, e anche il bamboccio che è lì, continua l'agenda di Monti, di Letta e delle banche centrali della BCE con questo debito, che prima o poi il debito, dicono degli economisti che non esiste, forse non esiste, però prima o poi esisterà e si mangerà la realtà. Eccolo qua, le banche. Qua. Vabbè. Le banche, un grande ritornello di Grillo, quello delle banche. Che succede? Mi senti ancora? Ah, certo che ti succede. Ti no, sento sentivo, dei rumori, strani al telefono, probabilmente mi stanno staccando la linea. stanno già operando per togliere la linea. Insomma. Stanno già tagliando la linea. Siamo riusciti in 25 minuti a demolire un posto di lavoro praticamente. Demolire? Io non so domani dove sarò, te lo farò sapere. No, ma è un grande colpo comunque quello di Mentana, volevo dire, perché alla fine la forza di quell'intervista è proprio quella, vedere Grillo fisicamente lì. Avrei forse scelto uno sfondo migliore, sai, quella tendina dietro rossa faceva un po' boudoir, insomma, un po' motel, quindi forse quello l'avrei cambiata, però insomma è stato un bel colpo. Sì. Vabbè. Senti, a parte Moretti, a parte prendervela con Moretti, di che parlate oggi? Oltre a Moretti parliamo in generale di lavoro, di lavoro giovanile, poi diventiamo un po' più seri, parliamo delle parole del Papa sulla mafia e devo informarmi su di cosa parlerà Federica Panicucci. Insomma, l'importante è essere una squadra unita, cioè sì, una squadra unita, ognuno sa sempre cosa fa l'altro. Certo. E adesso mi devo infilare, tra poco mi infilerò in riunione sperando di trovare qualcuno e insomma mi spiegheranno, i giornali non li leggo perché già me li hai letti tu. Sì, vabbè, ma allora ti segnalo un'intervista a Fabrizio Corona sul Corriere della Sera, la prima intervista. Mi ha salvato la vita il carcere, finalmente qua ho ripulito l'anima, anche se qui è come un po' essere morti, racconta quello che ha fatto. E poi ti segnalo anche, a proposito di sprechi sul Secolo XIX, visto che ci rompono le balle dall'Europa all'Europa, sai che in Europa spendiamo 200 milioni di euro l'anno perché abbiamo due sedi a Bruxelles, a Strasburgo. Certo. ogni mese se n'è accorto l'eurodeputato Niccolò Rinaldi, che è entrato nel suo ufficio e ha detto: ma cos'è tutto questo, tutte queste casse qua fuori dalla porta? Ma come? Una volta al mese 20 tir vengono caricati per spostare tutti i faldoni da Bruxelles a Strasburgo, da Strasburgo a Bruxelles e via, 20 tir così per avere due sedi diverse. Capito? Certo, c'è una transumanza quotidiana, questa cosa la sapevo, ma nonostante questo lo sanno tutti, ma nonostante questo continuano queste cose paradossali, mi parlano di miliardi di finanziamenti a commissioni piuttosto che club svedesi per la tutela del pastore bergamasco, cose di questo tipo. Grande rispetto per il pastore bergamasco. Grande con tutto il rispetto per il pastore bergamasco, non vorrei che anche lui si rivoltasse contro di me questa mattina. E che ti devo dire? Poi dice che uno si butta nelle braccia di Grillo, queste sono cose che in Europa, nell'Europa del rigore non dovrebbero succedere. Me li vedi 20 tir che partono, tutti pronti, dai a Strasburgo! Esatto. è un gran premio, il gran premio d'Europa, esatto. Va bene, dai, ti lasciamo alla riunione, grazie Federico, buona giornata, ciao. Ovviamente, ovviamente mattino 5... tra poco, e noi state qui invece su Radio 24 con il giornale radio che arriva. Ci sentiamo subito dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari debosciati d'Italia. Forza, che fate lunedì? È lunedì, bisogna attivarsi, bisogna andare a lavorare. E tra l'altro inizia la 47esima settimana decisiva per la riforma elettorale e anche la 47esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Voi che fate lì nei vostri letti a fare le vostre abbondanti e succulenti colazioni? Andare, forza, marcia, marcia. Allora, oggi alle 8:15... avremo un ospite qui negli studi di Radio 24. Ci viene a trovare un ospite che è conosciuto come soprattutto attore, come comico, come autore, ma che in realtà viene qui nelle vesti di scrittore. Si tratta di Joelle Dix, che ha scritto un libro sorprendente, un libro intenso, un libro molto bello, un libro sulla sua famiglia perseguitata dalle leggi razziali. Quando tutto questo sarà finito, Joelle Dix sarà ai nostri microfoni qui tra un'ora, alle 8:15. Di questo parleremo oggi, approfondiremo, intanto andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 24 marzo iniziamo dai titoli: Il Sole 24 Ore, pubblico impiego, prove di tagli. E questo è un titolo che troviamo un po' ricorrente, il tema ricorrente, quello dei tagli. L'apertura del Corriere della Sera, per la verità, è sulle elezioni in Francia. Balzo di Marine Le Pen, segnale all'Europa, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per Repubblica, spunta bonus in busta paga, l'ipotesi di una nuova misura al posto dei tagli dell'IRPEF. Il Messaggero, Renzi, voglio i tagli ai manager. Il Giornale, dopo la casa, i treni, il cerchio magico di Renzi. Dietro la polemica sullo stipendio del capo delle ferrovie ci sono alleanze e interessi. Scrive il Giornale, Moretti, cioè delle ferrovie, il grande nemico dei grandi amici del premier Montezemolo e della Valle. Mentre Le Pen spaventa l'Europa, il titolo anche dell'Unità, La Stampa invece apre così: Renzi, il voto alle europee non è su di me. Ma in un colloquio, intervista con La Stampa, qualche frase strappata dice: il mio nome nel simbolo, vedremo alle politiche. Questo per Matteo Renzi sulla Stampa. Comunque il tema dei tagli, i tagli ai manager, i tagli alla pubblica amministrazione, i tagli per recuperare soldi, questo è il tema centrale con cui si apre questa settimana per i giornali. A proposito di tagli, beh, a proposito di settimane decisive, io l'ho detto in maniera, vabbè, siamo alla 47esima settimana decisiva, ma a pagina 6 della Stampa scrivono così: una settimana per abolire le province, cari ascoltatori, quindi non è una barzelletta mia, una settimana per abolire le province, altrimenti si tornerà alle urne. È una giornata, è una settimana parlamentare importante, non dico decisiva per non scadere nel ridicolo anch'io, come scrive Antonio Pitoni. Il disegno di legge Del Rio è al Senato, è il punto di non ritorno, è fissato a fine marzo, scatterà l'indizione dei comizi elettorali. Per questo la parola d'ordine è fare presto, per evitare che anche nelle province, che il DDL del Rio punta ad abolire, si torni a votare per il rinnovo degli organi elettivi all'Election Day del 25 maggio. Lì 73 organi provinciali, 52 a statuto ordinario, 21 già commissariati. In caso di mancata approvazione del provvedimento, tornerebbero alle urne. Quindi o entro fine marzo, e quindi questa settimana, si approva il disegno di legge del Rio, che la stessa stampa dice non vuole cancellare e portare a un decesso le province, ma procederà a uno spostamento del personale, a uno svuotamento delle funzioni degli enti provinciali. Ma o si fa questa settimana oppure scattano i comizi elettorali, l'indizione dei comizi elettorali, e quindi in 73 organi provinciali che vanno a scadenza il 25 maggio si vota. Quindi è una settimana decisiva. Ebbene sì, a proposito di tagli, il Messaggero si concentra a pagina 6 su quelli che sono i tagli, no, gli stipendi dirigenziali. Sapete che si vuole porre questo tetto, che poi in realtà non si è mai riuscito a porre, di 303.000 euro. Ci sono poi delle eccezioni, non si riesce, no, c'è la polemica anche che vedremo con il numero uno delle Ferrovie dello Stato Moretti, che guadagna 873.000 euro. Ma il Messaggero si concentra anche su altri dirigenti. Questi sono difficilmente rimodulabili come stipendi, perché sono i dirigenti di Montecitorio, di Palazzo Madama, i dirigenti di Camera e Senato. E qui le retribuzioni arrivano fino a 406.000 euro, il tetto agli stipendi, lo stop al caos dei privilegi. Questo è il titolo del Messaggero a pagina 6. Perché è più difficile? Perché Camera e Senato, l'abbiamo spiegato tante volte, hanno l'autodichia, cioè hanno un'autonomia giudiziaria. Non è che per legge il governo può intervenire, sono Camera e Senato stessi che devono autostabilire che vengono ridotti gli stipendi ai propri dirigenti. E allora, scrive Diodato Pirone a pagina 6 del Messaggero, i mega stipendi da 300-400.000 euro annui lordi di segretari di Camera e Senato e dei loro vice potrebbero essere tagliati nel giro di qualche mese. C'è il condizionale, potrebbero essere tagliati. Dovrebbe essere questo il primo risultato del nuovo giro di vite sulle retribuzioni dei 2.300 dipendenti del Parlamento italiano. Le mega retribuzioni dei dirigenti apicali delle due Camere sono nel mirino delle rispettive presidenze, perché superano il tetto dei 300.000 euro lordi annui istituito dal governo Monti per tutti gli alti burocrati pubblici. Si arriva appunto a stipendi di 406.000 euro. C'è però l'intervista a Marina Sereni, che è vicepresidente della Camera, che si occupa di questa sorta di spending review nel Parlamento, che pone una problematica che abbiamo affrontato anche qua più volte. 2.300 dipendenti, siamo costretti a trattare con 20 sigle sindacali diverse. 20 sigle sindacali per 2.300 dipendenti. A proposito di sprechi, basta girare pagina sempre sul Messaggero. Tagli, tagli, ma non per tutti. Regione Sicilia, e qui dico come sempre, tenete le mani strette sul volante se siete alla guida, mani strettissime. La Sicilia sforna 500 nuove poltrone di sottogoverno. Claudio Marincola. Commissioni, intergruppi, sottocommissioni, comitati, collegi. Il groviglio è talmente fitto e ramificato che non stare dentro qualcosa, se sei un politico di professione o un dirigente, è perfino difficile. Una consulenza non si nega a nessuno, un incarico non sia mai che la regione siciliana debba lesinarlo. Pochi piccioli è meglio di niente. È la legge del sottogoverno, un'arte che si tramanda, un cromosoma che un tempo si trasmetteva di padre in figlio e ora si trasmette e basta. Ai siciliani tenere in vita l'ecosistema del sottobosco, concimarlo, ossigenarlo, costa 1 milione di euro l'anno. La lista delle prebende, eccolo qua. 20 pagine fitte fitte di nomi, 500 fortunati, dal presidente del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, Ciro Di Vuolo, 44.629 euro lordi l'anno, è il più retribuito, amico intimo del deputato regionale Francesco Cascio, presidente della Commissione Europea. C'è poi il caso di Bruno Salvatore Aurelio, chiamato a far da presidente a cabina di regia del presidente della regione, scatole cinesi, incastri interni, giustificati con la necessità di monitorare l'attività della presidenza. Nella fattispecie l'incarico da 11.968 euro l'anno conferito alla segreteria particolare del governatore. Insomma, in tutto 1 milione di euro. C'è anche appunto il presidente della cabina di regia della presidenza. Che bel lavoro. Faccio il presidente della cabina di regia della presidenza. Ma insomma, non siamo solo noi italiani a essere spreconi, eh? Oggi il secolo XIX torna con una pagina, pagina 6, a firma Vittorio De Benedictis, a parlare degli sprechi europei, dove lo spreco maggiore, visibile, evidente a tutti, ma non si fa niente, è il fatto che ci siano due sedi a Bruxelles e a Strasburgo. E cosa succede? L'Europa che pretende tagli spreca 100 milioni di euro l'anno, questo è il titolo. 100 milioni di euro l'anno è lo spreco per spostare il materiale. Proprio si sposta fisicamente, tra l'altro nell'era della digitalizzazione, di tutto quello che può viaggiare online. Guardate, se n'è accorto l'eurodeputato Niccolò Rinaldi dell'IDV Italia dei Valori. Quando sono entrato la prima volta nel mio ufficio a Bruxelles, ho visto fuori dalla porta un grande baule e mi sono chiesto: ma a che serve questo grande baule fuori dalla mia porta? Ma come? Il grande baule una volta al mese viene caricato su un tir, lascia gli uffici dell'Europarlamento a Bruxelles e approda agli uffici dell'Europarlamento a Strasburgo. Nel cassone documenti, libri, caricatori per cellulari, cancelleria varia. Beh, i bauli sono circa 3.000 e riempiono ogni mese 20 tir che si spostano con 5-10.000 persone. Si spostano da Bruxelles a Strasburgo, da Strasburgo a Bruxelles. Una migrazione 200 milioni di euro l'anno che costa ai contribuenti europei 1 miliardo di euro a legislatura. 1 miliardo di euro. È il tasto della doppia sede del Parlamento europeo, pigiato con estrema cautela. Lo scandalo c'è tutto in tempi di vacche magre. È lecito chiedersi perché sprecare tanti soldi per tenere in piedi due sedi. E è chiaro che a rischiare è Strasburgo, visto che a Bruxelles lavorano e risiedono 5.000 dipendenti e che sempre nella capitale belga c'è la Commissione, il governo europeo, con altri 7.000 tra funzionari, dirigenti, interpreti, portaborse e assistenti. Eppure questi 20 tir bisonti della strada che da Strasburgo a Bruxelles, pieni dei bauli con tutte le scartoffie, ecco, questo è un emblema dell'Europa che va e che funziona. Va bene, il menù è questo. Rientriamo dopo la pubblicità per parlare di Renzi, i suoi rapporti con i sindacati, un Renzi che tira dritto, un Renzi che pensa ai tagli e la polemica soprattutto che coinvolge la vicenda del numero uno delle ferrovie, Moretti. Alessandro Milan, il ginecologo dell'informazione. Sì, vabbè, dai. Alle 7:32 minuti, allora, la notizia più importante riguarda Matteo Renzi, che dopo aver fatto un'intervista ieri a Repubblica, scusate, al Messaggero, ha fatto anche un'intervista al TG1, nella quale si è arrabbiato con le parti sociali, ha detto: le parti sociali mi interessano le famiglie, ha parlato soprattutto così di CGIL e Confindustria, si arrabbiano da 20 anni, ce ne faremo una ragione. Certo che questo ce ne faremo una ragione, come prima si diceva, sta ormai abbondantemente superando l'hashtag stai sereno, no? Ce ne faremo una ragione. Questo sembra la nuova filosofia di Matteo Renzi davanti alle critiche. Renzi: le parti sociali mi interessano le famiglie, questo è il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera. Susanna Camusso ieri a Stretto Giro di Poste e oggi in un'intervista alla Stampa risponde, intervistata da Francesco Manacorda, Susanna Camusso, leader CGIL, dice: le posizioni di Renzi indeboliscono la democrazia. Posizioni come questa che riducono le forme di partecipazione indeboliscono la democrazia sempre. Non è un giudizio su questa fase, ma un'affermazione di scuola. Lui, dice la Camusso, che teorizza la necessità di cambiare verso, in realtà non fa che assecondare una tendenza già esistente. Penso che sia un errore, pensa sia una grande occasione per il sindacato di riappropriarsi della contrattazione nelle fabbriche. Non mi angoscio di fronte alle sue parole, ma ritengono che esprimano un elemento di conservazione. Renzi certamente cavalca un'onda di parte dell'opinione pubblica, ma forse ha un'idea diversa della relazione tra politica e società, peraltro tutta da sperimentare. È un modello ben conosciuto anche in Italia, nella versione politica di Berlusconi come in quella tecnocratica di Monti. Questa è la reazione di Camusso, che dice: cancellare la rappresentanza è un errore ed espone a rischi. C'è da dire che è proprio su questo tema, il tema della concertazione, che per Renzi evidentemente ha stancato, e che anche il deputato Pietro Ichino in un'intervista a Repubblica dice: è una palla al piede, le parti sociali sono in ritardo sulle riforme, ed è per questo che forse Matteo Renzi si è speso ed è andato così avanti in questo scontro verbale. Almeno intervistato appunto da Repubblica, da Paolo Griseri, Ichino dice: la concertazione può costituire una marcia in più per il governo di un paese, ma solo a una condizione, che tra governo e associazioni sindacali e imprenditoriali ci sia piena condivisione degli obiettivi da raggiungere e dei vincoli da rispettare, altrimenti diventa una palla al piede, perché attribuisce un potere di veto a chi rappresenta una parte soltanto degli interessi in gioco. Insomma, lo scontro certamente è uno scontro duro. Lo stesso Stefano Fassina, uno che con Renzi ha sempre avuto problemi, intervistato dall'Unità a pagina 3, in qualche modo prende le difese in questa situazione di Camusso e Squinzi, nel senso che dice: basta delegittimare i sindacati o resteranno solo i forconi. Così Stefano Fassina. Certo, c'è da dire che lui e Matteo Renzi non hanno mai avuto tra di loro, non c'è mai stato grande feeling, no, tra questi due esponenti del Partito Democratico. Su questo c'è da dire che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, viene intervistato dal Messaggero a pagina 5 e ribadisce la situazione di palude, no? Un altro termine che è sempre emerso con prepotenza negli ultimi mesi è proprio questo, la palude. Tanto che il Giornale, prima di arrivare all'intervista al Messaggero di Del Rio, il Giornale a pagina 2 la mette così: Matteo si sente intoccabile e chi lo critica diventa palude. No? Tutto ciò che critica è palude. E infatti, guardate, proprio da questa immagine inizia nell'intervista al Messaggero Graziano Del Rio. Lo intervista Mario Aiello e l'inizio è questo: non credevo che la palude burocratica fosse così paludosa. Ora riparte un'ondata di riforme. Così Graziano Del Rio: non credevo fosse così paludosa, occorre uno tsunami di riforme per liberare l'Italia dall'anomalia di una pubblica amministrazione elefantiaca e poco efficiente. La burocrazia costa miliardi a causa della non semplificazione dell'intero sistema. Vi dimostreremo che Palazzo Chigi, che viene accusato di essere la zona di massima resistenza a tagli e riforme, non è così. La sede del governo darà per prima l'esempio che si può essere più sobri, più semplici e più efficienti. Stiamo per presentare un piano di revisione della spesa di Palazzo Chigi. Ne stiamo discutendo col Premier Renzi. E dentro pochi giorni renderemo pubblico questo progetto, perché proprio Palazzo Chigi deve essere all'avanguardia del nuovo corso. Poi fa qualche esempio: vanno ridotte le centrali appaltanti con cui i ministeri e tutto il resto della pubblica amministrazione acquistano bene servizi. Da 32.000 devono diventare un centinaio. Altro esempio, per rendere più efficiente il sistema della nostra sicurezza occorre redistribuire funzioni e disboscare sovrapposizioni. Le sinergie tra forze di polizia non significano tagli al personale che difende le nostre famiglie. Non vogliamo certamente indebolire questo comparto, lavoriamo per renderlo più rapido e più moderno. Lo stesso vale per la difesa. Non vogliamo indebolire la nostra presenza internazionale, vogliamo invece contenere la spesa, lavorare con più convinzione verso un esercito comune europeo. Tra l'altro, riguarda la polemica Renzi sindacati, non credo sia finita la luna di miele tra il paese e il governo. Ho ascoltato parole di apprezzamento dei sindacati sul provvedimento che rimette nelle tasche dei cittadini 80 euro, così come l'apprezzamento di Confindustria a proposito di IRAP e decreto lavoro. Poi ci sono parti della riforma che non piacciono. Sappiamo che non si può condividere tutto, basta che non ci siano pregiudizi. In conclusione di questa intervista al Messaggero, Del Rio dice anche: facciamo un progetto per togliere le transenne intorno a Palazzo Chigi. Questa piazza non merita barriere, va restituita la libera fruizione dei cittadini, e sia Renzi che io sappiamo l'importanza di un rapporto di vicinanza anche fisica tra le persone. Dunque vogliono anche togliere le barriere per avvicinare fisicamente i cittadini a Palazzo Chigi. Tutto il grande tema poi di discussione è quello dei dirigenti della pubblica amministrazione. Dove tagliare? Oggi Il Sole fa delle ampie pagine dedicate a questo, sui tagli alla pubblica amministrazione. C'è anche il progetto di rendere gli stipendi delle regioni calmierati e commisurati agli stipendi dei sindaci dei capoluoghi, e quindi le regioni verso indennità dimezzate. Questo è il titolo di pagina 2 con Gianni Trovati, che racconta come presidenti e consiglieri regionali dovranno percepire emolumenti mai superiori a quanto percepito dai sindaci dei capoluoghi. E tanto per fare un esempio, il sindaco di Roma guadagna 9.763 euro lordi al mese, mentre il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, in questo caso guadagna il 41% in più, 13.800 euro al mese. Ecco, l'ipotesi di Matteo Renzi allo studio è parametrare gli stipendi delle regioni agli stipendi dei sindaci dei capoluoghi. E poi c'è tutta la polemica che coinvolge ancora Moretti, il capo delle ferrovie. Allora, ieri Della Valle, che per la verità insieme a Montezemolo è socio di NTV, quindi in qualche modo concorrente delle Ferrovie dello Stato, ha avuto delle parole durissime. Se Mauro Moretti avesse il coraggio e la dignità di andarsene, troverebbe milioni di italiani pronti ad accompagnarlo a casa. Tutti quei passeggeri costretti a viaggiare su treni vecchi, a usare stazioni decrepite, senza rispetto per la loro dignità. E ancora Della Valle, bisogna dire perché il palazzo è succube di questo signore, bisogna far chiarezza su tutti i rapporti che intercorrono tra lui e i politici. E vabbè, insomma, un Della Valle durissimo. Certo, su questo Il Giornale infatti fa notare, è anche una battaglia forse di interessi. Il titolo a pagina 3, Della Valle contro Moretti, spinge il treno di Renzi con il socio Montezemolo. Ma al di là di questo, la tematica lanciata da Moretti, e cioè se i dirigenti vengono pagati meno se ne vanno, lui prende 873.666 euro l'anno, come scrive Sergio Rizzo a pagina 9, che riepiloga ancora il retroscena dello sfogo di Moretti, che dice: io devo trovare un direttore finanziario o un capo risorse adatto a un'azienda come questa, e se non posso pagarlo almeno 400 o 450 mila euro l'anno, me lo dicano. Se non è così, l'alternativa è che si chiude. O ancora, ho risanato le ferrovie. Se invece non c'ero io, si correva il rischio di pagare 2 miliardi di perdite ogni anno. E scrive Sergio Rizzo, riferimento evidente ai conti ereditati dal suo predecessore Elio Catania. Rigetta anche il confronto con Lorenzo Necci, ultimo presidente dell'ente Ferrovia, che sulla carta aveva una retribuzione pari a 220.000 euro di oggi, ma, dice Moretti, guadagnava molto di più grazie agli emolumenti per le altre cariche, mentre nel mio stipendio c'è tutto, è compresa anche l'indennità per la presidenza presidenza di grandi stazioni. Certo, Sergio Rizzo dice forse lui può avere un pizzico di ragione, ma ci sono una serie di stipendi di dirigenti apicali della pubblica amministrazione che davvero non si capiscono. Per esempio, il presidente delle Ferrovie, Lamberto Cardia, che guadagna 300.000 euro l'anno, oppure Giovanni Ialongo delle Poste, arriva a 605.000, ma aveva anche degli arretrati del 2011 e quindi è arrivato a guadagnare 903.000 euro. Il capo del poligrafico dello Stato, Maurizio Prato, 601.000 euro. Ecco, cifre queste che fanno rilanciare la polemica. Cifre che sono più o meno lo stipendio di Mauro Meazza. Io voglio salutarlo, caro Mauro. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, stendi sommandone alcune di queste. Sì, sì, ma poi Meazza, mi ricorda qualcosa di ieri. Sì. Meazza. Non lo so, forse la MotoGP, l'hai seguita? È andato molto bene, non Valentina, so, hai visto una grande rimonta. Grande, ma una grande rimonta. Meazza. No, ti volevo dire, so, vabbè, intanto tu hai visto che oggi noi su Sole 24 Ore facciamo un po' queste simulazioni di riduzione del 25%, cioè certo, tipo i 2 euro per dire, sì, ecco, 50 centesimi dovresti già ridurli, benissimo, portarli a 1,50 euro, no, questo riguarda naturalmente i dirigenti apicali, perché si conta di risparmiare mezzo miliardo, spieghiamo tutto in pagina 3, e poi c'è la riduzione delle indennità di consiglieri e presidenti di regione, che anche si potrebbe affacciare all'orizzonte questa settimana, riduzione perché parametrerebbero le indennità ai sindaci dei capoluoghi, e quindi certo, sarebbe allora lì i tuoi 2 euro, diciamo, subirebbero delle riduzioni anche più pesanti, diciamo, andrebbero poco sopra l'euro complessivamente. Ma vabbè, tutto questo in punto sul Sole 24 Ore di oggi. Se invece vuoi degli aiuti, ti segnalo che tra una settimana esatta c'è il Click Day, il giorno per la Sabatini Bis, per chiedere i contributi della cosiddetta Sabatini Bis, e noi presentiamo una guida, puoi vedere se magari, non mi risulta che tu abbia le prerogative adatte, vabbè, però insomma, se per caso tu rientrassi… Posso tornare a 2 euro, insomma, potresti farti ridare una parte di quello che comunque ci serve, quindi… Contiamo naturalmente sulla tua solidarietà. E hai visto che altri paesi sono più attraenti dell'Italia, non per il clima naturalmente, ma per le imprese. Sì. C'è un bel lavoro di Chiara Bussi che fa vedere com'è. Tipo la Svizzera. No? Ma non è solo la Svizzera. Un a caso. No, quello più citato. L'Olanda, la Gran Bretagna, vabbè, insomma. Accidenti, se attraggono più imprese di quanto riusciamo a fare noi, speriamo di invertire rapidamente la tendenza. Ti raccomando domani di non perdere il dizionario, devi sempre portare il condominio, te lo ricordo. Sì, studiare. Ecco, domani c'è il secondo dizionario dedicato alla banca, su questo appunto, su questo euro che ti lasciamo, o euro e 50, almeno sai bene dove come trattare. Molto e bene. Sai dove trattare. Vabbè, volevi parlarmi di altro? No, è che questo Meazza ricorda qualcosa, uno stadio, so, forse, vabbè. No, non ne ho idea. Guarda, Vandita te amo, è passata adesso questa maglietta di un giocatore, Vandita, sì, te amo, vabbè. Sì, però, ma perché l'ha fatta vedere quello che ha vinto la Milano-Sanremo? Ma vabbè, dai, consolati, no, ieri ha sempre pur vinto dei nerazzurri a Milano, quindi va bene. addirittura cade la linea. Un Meazza nervoso che mi sbatte giù il telefono per la sconfitta del l'Inter. No, non è così, sono i telefoni, purtroppo. La carta costa e io pago. Sì, la carta costa e tra poco lo scopriremo. Intanto, sempre per quel che riguarda le cifre, Repubblica ha una notizia con Valentina Conte dicendo che il governo sta pensando a un nuovo modo per dare questi 80 euro promessi. Non tanto il taglio dell'IRPEF, ma spunta il bonus in busta paga. Pagina 6 di Repubblica, il documento pronto ai primi di aprile, l'idea è questa. Si lavora su un'altra ipotesi considerata percorribile per dare questi 80 euro in busta paga agli italiani, a un sistema di contributi da rendere evidenti e visibili tra le voci dello stipendio, un bonus dunque che avrebbe il pregio di concentrarsi su alcune fasce di reddito prescelte, tagliando così la coda decrescente di sconti ai redditi sopra i 25.000 euro e fino ai 55.000, che sarebbero assicurati dal meccanismo delle detrazioni. Dunque i provvedimenti saranno più di uno, ma l'idea è dare sempre 80 euro, ma in modo diverso. Per quel che riguarda invece la politica in senso stretto, da registrare c'è questo colloquio che Federico Geremicca, qualche frase strappata a Matteo Renzi, sulla questione del nome nel simbolo. Sapete che molti dicono andrebbe messo il nome di Renzi nel simbolo delle europee. Lui dice: andremo alle europee senza nome nel simbolo per le ragioni che dicevo, rimaniamo sulla linea no name che varò Bersani, e cioè il PD è un partito forte e strutturato, non credo che si tratti di una tornata elettorale difficile. Poi però Renzi sulle politiche del 2018 dice: ecco, oggi è così, poi alle elezioni politiche nel 2018 staremo a vedere, tempo ce n'è. Tanto che questo spinge la stampa a fare il titolo: il mio nome nel simbolo, vedremo alle politiche. Dall'altra parte invece Forza Italia sembra consumarsi in un lento e lungo periodo, come dire, di difficoltà. Per Repubblica addirittura la battaglia finale, pagina 10 e 11, due pagine dedicate a Forza Italia, con la notizia è con Francesca Pascale, pronta a candidarsi. Perché no? Mi piacerebbe, continua a dire ai suoi, scrive nell'articolo Tommaso Ciriaco. Ci sarà oggi una riunione ad Arcore, ancora in pista l'ipotesi di candidare Barbara Berlusconi, nonostante ieri Berlusconi abbia detto nessuno dei miei figli si candida. E insomma, soprattutto i grandi esponenti del partito di Forza Italia che dicono Berlusconi si dia una mossa. Il più ottimista rimane sempre Renato Brunetta, che intervistato dalla stampa dice: il brand Berlusconi rimarrà e otterremo il 30% alle europee, tanto che anche la stampa dice: ma insomma, non le sembra essere un po' troppo ottimista Brunetta? Ma Brunetta dice: no, sarà così, il brand Berlusconi rimane. Brunetta aveva definito sempre la situazione di Forza Italia, che per i giornali è una situazione molto complicata, è un casino organizzato e molto produttivo, così l'aveva definita due giorni fa. Va bene, andiamo alla cronaca. Allora, molti giornali si concentrano rapidamente sulla Francia, dove il ciclone Marine Le Pen ha portato al ballottaggio 200 rappresentanti del proprio partito, tanto che il Corriere dice: si conferma così il malato d'Europa, no? Il ciclone Marine tra le sfidanti parigine. Credevano che gli elettori fossero idioti, così Marine Le Pen, pagina 3. In Francia ci sono almeno 200 ballottaggi, appunto, in cui ci sono esponenti al secondo turno delle elezioni. In 200 città ci sono esponenti del fronte di Marine Le Pen. Altre notizie di cronaca che mi hanno colpito: il Giornale, pagina 18. Arriva il divorzio breve. Se ne è parlato per tantissimo tempo. Arriva il divorzio breve. Ma dove? In Vaticano. Non potreste crederci, invece è così. Il paradosso è questo: mentre da noi la legge si è arenata tra mille cavilli, la Santa Sede snellirà la procedura per l'annullamento delle nozze da 2 a 1 anno. Con il cardinale Cocco Palmerio, che è una sorta di ministro della giustizia in Vaticano, dice: così rispondiamo alle richieste dei fedeli, snellire e velocizzare le procedure per l'annullamento delle nozze. Da 2 a 1 anno il Vaticano fa il divorzio breve. E poi mi incuriosisce, se volete, la prima intervista, anche se con risposte scritte, a Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, lo ricordate? È in carcere. Intervistato da Giuseppe Guastella per il Corriere della Sera tramite i suoi avvocati: così il carcere mi ha salvato la vita. Sono sempre lo stesso, il DNA non lo puoi cambiare, ma il carcere mi ha salvato la vita, mi ha fatto tornare coi piedi per terra. Qui ho sempre tenuto vivo il cervello, ho ripulito l'anima, certo, mi manca tantissimo fare le gioie, tutte le gioie quotidiane, anche portare mio figlio a scuola, d'altronde qui in parte come essere morti, ma Fabrizio Corona racconta come sta vivendo la sua detenzione in carcere. Bene, siamo al momento conclusivo! Siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali di oggi. Stravince Repubblica, che dedica con Irene Maria Scalise una intera pagina su questa domanda esiziale, questa domanda che dividerà le famiglie a colazione, e cioè: qual è il cibo take away che gli italiani si fanno portare a casa la sera? Il sushi che batte la pizza! A Torino invece vince l'americano, a Genova il cinese, a Milano il giapponese, a Roma il cinese in Italia è la cena che più ci facciamo portare a casa. Ma chi se ne frega? Ma io dico, ma va bene, ma mangiate serenamente, ma scriverne una pagina su Repubblica. Ci rendiamo conto, sì o no? Vabbè, giornale radio. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, oggi abbiamo un ospite che è venuto a trovarci negli studi di Milano di Radio 24. È un personaggio famoso, è qui per parlarci di un libro che ha scritto. Prima però, se me lo consente, prima di dirne il nome e cognome, vorrei che si presentasse lui con forse la frase che l'ha reso più celebre agli italiani, eh? Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Ecco. Tra l'altro, visto che veniamo proprio veniamo dal traffico, l'avrete anzi, riconosciuto. È un onore essere subito dopo il traffico, che sento sempre con apprensione su Radio 24. Allora, Gioele Dix, l'avete riconosciuto, è diventato celebre per questa frase, ma non solo, è un attore, un autore, ed è anche uno scrittore. Ecco, io l'ho trovato con grande stupore. Avevi già scritto dei libri, Gioele? Avevo scritto un romanzo un paio di anni fa e poi avevo fatto anche dei libri, diciamo, satirici, umoristici, però la vera e propria narrazione come questa è una specie di debutto, anche per il tipo di libro. E certo, allora io parto dal titolo. Il titolo è Quando tutto questo sarà finito, ma forse il sottotitolo racconta molto di più. Storia della mia famiglia perseguitata dalle leggi razziali, edito da Mondadori. Questo è un libro, io dico, sorprendente perché intanto non avresti neanche pensato tu di scrivere la storia della tua famiglia, perché è una storia che è stata nascosta per tanti anni, soprattutto nel cuore, nell'anima, nella mente di tuo padre. E poi cosa è successo? Diciamo che questi fatti dolorosi, tragici, che occupano un periodo importante che è dal 1938 al 1945, quindi con tutti i problemi che hanno avuto in tanti in Italia e nel mondo, nella mia famiglia sono stati vissuti sulla pelle in maniera molto dolorosa, e poi però sono stati metabolizzati e considerati un po' come una cosa normale. In più, avendo lasciato degli strascichi molto dolorosi, la perdita di uno dei componenti importanti della famiglia, si è steso un velo di silenzio, una sorta di patto. Tu non domandi e io non ti dico. E quindi per molti anni, seppur io a pezzetti sapevo che erano successe cose, e lo sapevo anche dai libri di scuola, però non ero mai riuscito ad avere una testimonianza fatta bene, finché un certo giorno, pochi anni fa, ho messo mio padre seduto e ci siamo messi a chiacchierare. Gli ho detto: hai voglia adesso di raccontarmi? E probabilmente lui era a quel punto maturo, perché poi viene un'età nella quale hai desiderio di cominciare a raccontare, di condividere certe cose, anche se dolorose, di passare il testimone. Ecco, la prima domanda è proprio questo, cioè perché tu ti sei chiesto anche perché tuo padre abbia nascosto per tanto tempo questa storia, semplicemente perché sono storie brutte, semplicemente perché sono storie difficili da raccontare, sono storie dolorose, oppure c'è un qualche... Credo che ci fossero due elementi. Diciamo che il cuore della storia è che dopo le leggi razziali i cittadini ebrei sono degradati a cittadini di serie B e subiscono tutta una serie di angherie e di limitazioni, ma il vero salto di qualità in negativo si fa nel 43, quando arrivano i tedeschi, invadono da nemici l'Italia e chiedono le liste dei cittadini ebrei per portarli via, e non si sa bene dove, ma si immagina che non sia per un bel destino. La mia famiglia scappa e quindi questa è la prima grande ferita per una famiglia, soprattutto mio nonno, perché mio padre era un ragazzino, un bambino, ma mio nonno era un uomo, un italiano, e orgoglioso di esserlo. È una grande ferita scappare dal proprio paese per salvare la pelle. Tra l'altro, tu racconti all'inizio tuo nonno era anche orgogliosamente fascista, sì, con tessera fascista, poi sì. Un giorno torna a casa e scopre dal giornale, dal Corriere della Sera che sono state promulgate le leggi razziali. Ecco, cosa significa questo per una persona che era orgogliosamente fascista ma era ebrea e quindi deve fare i conti con questa realtà immediata? Diciamo che in un ritratto ideale avrei potuto omettere questa parte, che potrebbe sembrare sulle prime non così edificante, ma invece ho voluto essere onesto, perché mio nonno era, come molti italiani, convinto che Mussolini avesse fatto delle cose buone, e io ricordo di avere appena parlato ogni tanto a frammenti di questa cosa, perché anche su questo mio nonno è sempre stato molto reticente, e lui mi diceva sì, no, io non mi rendevo conto di tante cose cattive che faceva, eccetera, però lui era appunto molto legato al suo paese. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, la prima frattura è quella di essere cacciati dal proprio paese e dover andare in esilio, in un esilio faticoso e complicato, e poi al ritorno nella tanto amata patria, soprattutto a Milano, perché questo è un libro ambientato a Milano, con tutto l'amore per questa città, e c'è il desiderio di buttare il cuore oltre l'ostacolo, la necessità di superare questo dolore, e quindi non pensare più non fare neanche troppo le vittime, ecco, perché poi questa è una cosa che mi ha sempre colpito della mia famiglia: molta asciuttezza, nessuna retorica, sono fatti che sono successi, a qualcuno sono successi dei guai, a noi questo, però è paradossale, perché invece raccontando questa storia io racconto anche un pezzo d'Italia, storia. Ma si può farlo con questa, tu hai notato questa asciuttezza appunto nella tua famiglia, si può raccontare appunto come una serie di eventi che capitano, una vicenda così profondamente dolorosa e storicamente importante come quella che poi ha coinvolto milioni di persone. Guarda, io su questo non ci sono scelte, è stata proprio sempre questa la parola d'ordine. Siamo una famiglia in questo senso poco retorica, poche scene madri, sempre molto molto ognuno sulle proprie, e quindi questo è il senso. Devo dire che quando ho cominciato poi a mettermi a scrivere, perché questo libro è una mediazione, io do voce alla memoria di mio padre, ma avevo il problema da scrittore di come maneggiare questo materiale, e allora ho pensato inizialmente di scriverlo come un testimone che ha ascoltato e che riporta. Poi però mi sono accorto che restavo troppo fuori, mancava la parte emozionale, e allora ho deciso, poca fatica, di fare l'io narrante mio padre. Quindi è mio padre, Vittorio, che racconta la storia, e mi sono però reso conto che quella è stata la scelta giusta. Perché? Perché oltre a quella naturale, ti dicevo, istintiva, familiare asciuttezza, i ricordi di questo ragazzo appunto sono ricordi di bambino, quindi senza retorica. Per un ragazzo le cose succedono, spesso non hai neanche gli strumenti per decodificarle, proprio a 10 anni, non è che sai perché succedono le cose. Per esempio, una delle prime cose del libro è che lui non può iscriversi al Carducci, che era la scuola media alla quale lui voleva iscriversi, perché abitava vicino a Piazzale Loreto, una piazza che poi diventa famigerata peraltro, e questa esclusione, lui non sa perché, e i suoi genitori non gliela spiegano. Comincia subito questa lunga striscia. Perché è difficile spiegare il concetto delle leggi razziali a un bambino di esatto, di ma forse perché loro stessi non se la riuscivano a spiegare o il pensiero, la spiegazione li mortificava come italiani. Sentivano un po' umiliati. Non tutti hanno avuto la forza di reagire e andare avanti. C'è un nostro parente, uno zio, che era violinista nell'orchestra della RAI, dell'EIAR ai tempi, che pochi giorni dopo si impiccò perché essere cacciato così dall'oggi al domani senza liquidazione, senza spiegazioni, è una botta che non per tutti si riesce a reggere. Perdi il lavoro, perdi la sicurezza in te stesso. Assolutamente, e quindi ovviamente la depressione, la paura possono vincere. Però questo romanzo di Joelle Dix è un romanzo nel quale non tutte le persone, non tutti i personaggi sono cattivi, anzi. Tu lo sottolinei in questo momento di grande difficoltà, nel momento della promulgazione delle leggi razziali, quando ci sono le delazioni, ci sono le persone che tradiscono, ci sono le persone che consegnano anche gli ebrei ai fascisti, ci sono anche delle persone positive, c'è il carabiniere che viene a casa vostra ma chiude un occhio, ci sarà poi più avanti, lo vedremo, il finanziere che addirittura aiuta la famiglia a fuggire in Svizzera. Quindi questo spaccato di umanità rimane ed è profondamente insito nel racconto che fai. Devo dire che nella lunga testimonianza che mi ha lasciato mio padre, che ho anche filmato per tenerla lì, per averla, e lui ha avuto pochi momenti in cui si è commosso, e uno di questi è stato quando ricordava, sembra un dettaglio da niente, ricordava un commissario di polizia che andò si recò nella piccola pensioncina a Viareggio in cui loro erano in vacanza, e per dirgli che dovevano andarsene perché non erano graditi. Questo commissario di polizia toscano, persona per bene come tante, si vergognava di fare questa missione e lo disse apertamente a mio nonno: io mi vergogno, non solo, ma sarebbe stato tenuto a fare il saluto romano. Invece gli strinse la mano con un gesto quasi provocatorio, come dire: io la riconosco come uomo e mi vergogno per il mio ruolo di fare quello che faccio. Ecco, è strano che di fronte a cose ben più gravi da ricordare mio padre si sia emozionato veramente, quasi con la lacrima, a ricordare l'indignazione di quest'uomo. E devo dire che questo è un libro che sono orgoglioso di avere scritto per affermare quanto bello è il popolo italiano nella sua maggioranza. Certo, seppure in un momento, e anzi soprattutto in un momento in cui era più facile essere, se vuoi, dalla parte, no, dei più forti in quel momento e non dalla parte dei più deboli. E invece sì, ci sono persone che si sono spese e hanno anche rischiato per... Diciamo che poi anche queste leggi razziali sono state adottate e fatte rispettare all'italiana, ed è questa anche un po' la trappola nella quale sono caduti gli ebrei italiani, perché essendo a loro volta italiani come tutti hanno detto vabbè, si fidavano, insomma, qui siamo in sì, Italia, non ha detto dai, vedrai, non è che faranno poi così sul serio. E invece, siccome la macchina statale, la burocrazia per esempio, si è mossa molto per schedare, per precisare, mio nonno, mi ricordo, raccontava, questa è una cosa che ricordo detta da lui, che dovete andare più volte in prefettura, in questura a consegnare i documenti. Questa schedatura divenne una specie di manna per i tedeschi quando arrivarono, e loro erano già abituati nei paesi in cui avevano preso in mano la questione di essere molto molto scientifici e organizzati, e arrivarono in Italia e probabilmente si stupirono che un paese così cialtrone e disordinato come siamo noi avesse invece delle liste ben fatte di tutti i cittadini ebrei, nome, cognome, indirizzo, quindi non c'era che farsi accompagnare dalla polizia locale e andare a prenderli a casa. Ed è quello il momento nei quali un pochino prima, per fortuna, la mia famiglia, e non sono stati i soli per fortuna, sono riusciti a scappare. E noi ripartiremo proprio da qui, dal racconto anche di questa, perché il libro, se si vuole, non è che è tutto un fiume, è tutto un flusso molto ben scritto, ma c'è la parte di Milano e poi c'è la parte della fuga in Svizzera. Ripartiamo da qui dopo la pubblicità con Joelle Dix, che ci sta raccontando il suo libro, che è un po' la storia della sua famiglia e anche un pezzo importante della sua storia. 24 mattino. Siamo qua alle 8:35 minuti. Allora, come detto, oggi abbiamo ospite Gioele Dix, che ha scritto un libro, il libro che è la storia della sua famiglia, quando tutto questo sarà finito, famiglia perseguitata dalle leggi razziali. Ci stava raccontando che poco prima che le liste diventassero delle liste vere anche di, purtroppo, deportazione, e sappiamo che molti hanno avuto quella destinazione, la tua famiglia decide di scappare e la destinazione è la Svizzera. Per la verità non è stato facile. Mi ha molto colpito quando tu racconti che la libertà ha un prezzo, 24.000 lire, 6.000 lire a persona, nel primo tentativo che tra l'altro fallisce, poi vengono rispediti in Italia. 6.000 lire a persona era una cifra notevole. Era molto, era tantissimo, sì, sì, pare che fosse i risparmi di una vita fin lì. Mio nonno, quando tornarono poi, lui ricominciò, grazie al fatto che aveva nascosto in un muro murato della seta, per paracadute, che era una seta particolarmente pregiata e leggera, perché lui ha sempre lavorato nel campo della seta, ma non avevano più un becco d'un quattrino, proprio perché avevano, e in realtà quella spesa non servì, perché la Svizzera aveva cominciato a creare delle barriere vere e proprie burocratiche, insomma, come si può dire, a fare delle selezioni, insomma, perché l'onda di profughi era crescente, il paese era piccolo, cercava orgogliosamente di conservare la sua neutralità. È comprensibile questo, naturalmente. Questa è una storia che non per tutti è andata bene. I miei poi, ricacciati, tornano indietro in maniera rocambolesca, come racconto, si rifugiano in un certo posto e lì va a cercarli un ufficiale, esatto, della Guardia di Finanza. Il tenente Emilio, che è un altro personaggio buono, uno che sì, questo è veramente un personaggio con una marcia in più, cioè come dice, c'è una piccola parabola del Talmud, un racconto dentro il Talmud, che è uno dei libri di commento alla Bibbia, sempre sotto forma di narrazione, e dice che la bilancia del bene e del male è sempre esattamente in equilibrio, e soltanto la tua azione, buona o cattiva, farà pendere questa bilancia da una parte o dall'altra. Questo è il caso del tenente Emilio, che decide di fare una buona azione. Non è che si trova lì e quindi già che è lì, no, lui va proprio da loro, li cerca. Addirittura mio nonno, non sapendo bene che cosa voglia questo ufficiale, prende un bastone. È chiaro, non sa se fidarsi, sì, anche perché la prima volta non è andata male. Anche se mio nonno, mi fa ridere perché mio nonno non avrebbe mai fatto male a una mosca, quindi non so con quale scopo prendesse questo bastone, però questo è per dire quanto era disperato in quel momento. Prende un bastone e dà pure uno a mio padre, che aveva 15 anni, e con questi due bastoni vanno all'appuntamento con questo ufficiale, il quale gli dice: guardate che, perché io sono venuto per salvarvi, mica per farmi ammazzare con quei bastoni. Certo. Loro non sanno se è un agguato, perché potrebbe anche essere una trappola, però si fidano. Mio nonno lo guarda negli occhi e dice: questo è una brava persona, e infatti questo lo porterà. Gli darà, diciamo la possibilità per, sì, di passare nel punto giusto, nel momento giusto, perché poi anche questo è incredibile. Nelle pieghe della grande storia con la S maiuscola, le micro storie delle persone sono legate spesso a dei piccoli, appunto, gesti di bontà, ma anche a delle coincidenze, il momento giusto, l'ora giusta. Proprio parlavo a Genova, ho fatto la presentazione, c'era un signore molto simpatico dell'astrologo che è venuto a trovarmi, e lui ha avuto una vicenda simile, un signore ormai di 85 anni, era bambino anche lui, e lui ha raccontato che ci hanno messo 4 volte, hanno provato, finché sono riusciti a gennaio con la neve, anche lì in maniera molto molto casuale, a riuscire ad andare. Ci sono molte famiglie che appunto sono state, invece, hanno avuto un destino più brutto, molti componenti deportati, non sono riusciti a fuggire e finiti nei campi di sterminio. Questo paradossalmente può far nascere addirittura un senso di colpa nelle persone che invece ce l'hanno fatta e si sono salvati. Sì, assolutamente, è noto, è una delle sindromi più studiate, più... sono tutta una serie, i reduci dai campi di sterminio si portano dietro soprattutto questo peso, e oltre alla difficoltà di raccontare l'irraccontabile, proprio Primo Levi nei Sommersi Salvati spiega che era uno degli slogan beffardi con i quali i nazisti apostrofavano gli ebrei, dicendogli: anche se voi raccontaste quello che vi abbiamo fatto, ammesso che voi sopravviverete, nessuno vi crederà. E quindi, se unisci questo senso di colpa dell'essere sopravvissuto alla difficoltà di raccontare cose così difficili, ecco che si spiega il muro di silenzio, che poi però negli anni, dopo aver elaborato a lungo il lutto, le persone nessuno vi crederà. Ci sono persone che infatti non ci credono appieno, cominciano a mettere in dubbio le cifre, i numeri, come se i numeri, quando i numeri sono così grandi, no? 6 milioni eccetera, certo, sì. Fosse, facessero un una differenza se fossero 5 milioni. Però è un problema, perché sono così tanti, diciamo, non è possibile che siano così tanti, così uno così industriale è impossibile. E a queste persone che si può dire? Niente, è difficile dire qualcosa, bisogna continuare a testimoniare, a lavorare sulla memoria. Non sono neanche, c'è un dibattito su chi dice che sia giusto creare il reato di negazionismo. Sì. Cioè che mandare in galera qualcuno per il fatto che è un nega, dibattito in Parlamento. Dibattito. Qualcuno dice: io non ho una posizione così definita. Sono però colpito da coloro che dicono, anche proprio in campo ebraico, che dicono che non si può imporre per legge la verità, che è comunque un rischio. Bisogna anche avere la forza di affrontare chi nega e cercare di vincerlo, di batterlo sul terreno delle idee e degli argomenti. Perché è attuale parlarne? Perché c'è il rischio, un'altra cosa che si dice è: ma cose del genere non potranno capitare più nel mondo, sono talmente un unicum, anche se le persecuzioni, sappiamo, ci sono state nel corso dei millenni. Oppure è importante perché qualcun altro dice dall'altra parte: no, si vedono anche dei rigurgiti anche in Europa, anche nella vicina Francia, qualcuno dice, sì, con Marine Le Pen, oppure in paesi dell'est Europa dove ci sono forze che si stanno affermando molto di estrema destra, e quindi è importante parlarne per questo motivo. È importante parlarne perché non credo che esistano oggi le condizioni perché si ripeta in quella forma quel tipo di orrore, però i fatti dalla 45 in avanti hanno dimostrato in diversi altri scenari che sono successe cose molto pesanti, e ne continuano a succedere, persecuzioni, stragi, veri e propri olocausti. Quindi l'attenzione va tenuta alta di continuo, è una sorta di allarme continuo, per cui io non vedo una striscia ininterrotta, purtroppo. Probabilmente le condizioni che hanno portato a quel tipo di strage, a quel tipo di, non credo che potranno esserci di nuovo, però le condizioni per questo, proprio nel rapporto tra gli umani, esiste ancora, secondo me, un discorso ancora prima che politico. Certamente. Umano. Tornando al libro, dopo 2 anni, credo, in Svizzera, i familiari tornano a Milano e trovano anche questo, se si vuole, miracolo nel miracolo, di ritrovare la casa. La casa intatta, la casa non toccata, c'era qualche cosa che era stata sottratta, ma insomma, di fatto si può tornare paradossalmente a una vita normale. E come lo si fa? Sì, dunque, intanto la casa non era bombardata, non era crollata per un bombardamento, che era già un bel colpo. E poi sì, era occupata in realtà da persone che l'avevano occupata, immaginando che gli affittuari ebrei non sarebbero mai più tornati. E loro riescono a riottenere questa casa e ricominciano appunto con molta energia. Soprattutto sentono, mi ricordo che l'ho chiesto più volte questo negli anni: ma come avete fatto a riprendere? E loro hanno detto: ma noi abbiamo ripreso perché c'era tutto che era nostro, i nostri amici, i nostri luoghi, tutto c'era, insomma, sì, la tutto fortuna, c'era, assolutamente di trovare. E poi ritrovano anche altri familiari, c'è uno zio che si è nascosto perché era sposato per sua fortuna con una tedesca, quindi con documenti falsi si era nascosto, e c'è questo racconto bellissimo che mi fece lui, che andò in piazzale Loreto, che era a 2 passi, a vedere Mussolini, per poi tagliarsi questa barba con la quale si nascondeva la sua identità. Però quando era già davanti allo specchio insaponato, disse: ma sarà lui? Allora è tornato in piazza Duomo, in piazza, sì, in piazza Loreto, per controllare se era proprio lui. L'è lui. Allora si è tolto milanese la barba. Allora, dopo il traffico, c'è un'ascoltatrice, Delia, dalla provincia di Bergamo, che leggo, mi dicono, ha chiamato, 88 anni, le chiedo un attimo di pazienza, do il traffico e sono subito da lei. 24 mattino. Eccoci. Allora, Delia dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, mi sento? Sì, la sento. Perché io sono a letto e sono, ho 88 anni, ecco. Per cui sono non vedente, allettata. Ci dica, Delia. Però io parlo col signor Gioele. Sì, eccolo. Buongiorno, io la seguo da tanti anni, perché ho vissuto il suo dramma. Io sono cattolica, ma ho sempre vissuto con gli ebrei e ho vissuto quel dramma di suo padre quando al Carducci non ha potuto iscriversi. Ero in Libia ed ero amica con gli Habib, Hassan, Nunes Weiss e tutti ebrei. E in quei giorni, ero bambina, avevo 15 anni, quando hanno annunciato che gli ebrei non potevano più venire a scuola con noi, ho sofferto quel dramma che ha sofferto lei, suo padre, e mi emoziona ancora a pensarci. Mi piacerebbe poterla contattare per dirle tutto quello che ho fatto, perché tanti miei compagni, anche uno è stato ucciso a Mauthausen, e ho tutte le fotografie degli ebrei di quei giorni che venivano a casa mia. Mi dispiaceva, i miei compagni di scuola che non potevano venire più a scuola con noi, ho sofferto quello che ha sofferto suo padre. Mi piacerebbe contattarla e avere il suo numero di telefono, certo, il mio, perché mi piacerebbe dirle tante cose. Dopo Delia provvederemo. L'ascolterò con molto piacere. Che dire, la ringraziamo per la testimonianza, però insomma, come vedi, Gioele. E potrò poi contattare il signor Gioele? Sì, certo. Come farò? Non si preoccupi, Delia, daremo il suo numero a Gioele Dix e vedrà. Anche che la contatterà. Anche perché sono una... Adesso che sono allettata, che non ci vedo più, così sono un'appassionata a Radio 24 Ore, per cui sento tutte le notizie e mi tiene aggiornata e tengo la mente lucida, e ringrazio anche solo 24 Ore. La ringraziamo, grazie Delia, a presto. Dicevamo, nel libro, Gioele, c'è anche un racconto di un dramma, che tra l'altro è l'inizio e la fine di questo libro, perché il fratello di tuo padre, insomma, muore quando è molto piccolo, per una malattia, purtroppo all'epoca succedeva. Questo sconvolge molto la madre. C'è questa scena che vorrei tu ci raccontassi, che tuo padre ti ha raccontato proprio vicino a una massicciata di una ferrovia di Milano. Sì, è raccontata così, proprio appena, perché appunto si tratta di una ferita grande. Questo bambino, che aveva ai tempi 7 anni, si era ammalato di tante malattie durante l'esilio, perché citavamo l'esilio svizzero, e va detto che tra l'altro la riconoscenza verso quella che io ho sempre sentito chiamare l'amica confederazione è nella nostra famiglia sacra. Però questo è stato comunque un esilio nel quale ci sono stati molti disagi, perché comunque, essendo dei profughi, non erano proprio negli alberghi 5 stelle, e purtroppo questo bambino si ammalò di tante malattie e al ritorno, in poche settimane, mancò. Purtroppo la nonna, insomma, perse un po' il lume della ragione, come può succedere a una madre che sopravviva a un figlio. Sì, ecco un altro punto, dei casi. Al punto da arrivare a pensare proprio di andare in quella massicciata per buttarsi sotto, certo, un treno. Sì. E in quel momento tuo padre la inseguì, sì, e è stata la sua forza, e credo che tra loro sia rimasto sempre questa specie di patto. Ho come sempre percepito che mia nonna avesse consegnato a mio padre quasi le chiavi della sua sopravvivenza, come se dice: va bene, ha visto che allora tu hai deciso che io devo continuare a vivere, però allora sei responsabile. Mi fa venire in mente un film molto divertente, molto meno tragico, di Totò, Il coraggio si chiama, nel quale lui sta buttandosi da un ponte sul Tevere e Gino Cervi lo salva, e allora lui va dopo si presenta a casa sua e gli dice: vabbè, tu mi hai salvato adesso, quindi sei come un padre, e allora adottami, e gli porta tutta la famiglia. Ovviamente, per esempio, via SMS ci arriva un'ascoltatrice che ci scrive: Anna, pensare che per me Joelle Dix era solo quello delle battute su Smemoranda. Vabbè, congratulazioni. Beh, certo. No, perché questo ovviamente pone anche un cambiamento forse nella carriera. Comunque, capire se questa è una storia talmente intima che appartiene alla tua famiglia e quindi fa parte di un unicum, se vogliamo, anche di lavoro di scrittura, o se questo possa aprire anche a nuovi scenari della tua carriera, ovviamente. Beh, diciamo che io in questi anni ho cercato di diversificare. La mia passione grande è il teatro, sempre stato il luogo dove sono cresciuto, ho fatto i miei esperimenti più importanti, la mia formazione. La televisione è naturalmente lo strumento grazie al quale ho raggiunto un pubblico più largo, che però frequento, diciamo, con moderazione. E la scrittura è in generale, sia per il teatro che per la letteratura, la mia grande passione. Ci ho messo tanto a decidere di scrivere questo libro, però intendevo non tanto fare dell'autobiografismo stretto e spicciolo, perché chi se ne frega, ma di usare questa materia, usandola con pudore, con la giusta misura, perché potesse essere una testimonianza letteraria ma anche storica. Quindi io non sento che c'è una continuità. Tra l'altro, i comici, e qui parlo non certo di me ma di quelli grandi, veri, hanno sempre saputo mischiare tragicità e comicità. Sono due sguardi fratelli, simili della realtà. Anzi, i comici traggono sempre linfa dalle cose storte, dall'inciampo, dal dolore. E quindi, pensando al più grande di tutti, Chaplin, immaginiamo quanto con quella maschera meravigliosa di Charlot si è riuscito poi a raccontare proprio il dittatore, quando il dittatore c'era, quindi con un coraggio anche e una lucidità assolute, senza che questo abbia creato in nessuno la sorpresa. No, ma è chiaro, mi chiedono ovviamente anche qual è il titolo del libro, adesso ovviamente lo ricordiamo, e io vorrei proprio sul titolo del libro: quando tutto questo sarà finito. In realtà tutto questo è finito. Mi sono interrogato su quale fosse il senso più profondo e vero del titolo. Quando tutto questo sarà finito, che cosa? Mio nonno chiede, mio padre e mio nonno si incontrano, è un libro tra l'altro in cui il rapporto fra padre e figlio è un rapporto strettissimo, perché era il rapporto forte che c'era fra mio padre e mio nonno, ed è un rapporto anche triangolare anche fra me e mio padre, perché io a mia volta gestisco la sua memoria da figlio, facendomi voce sua, quindi c'è un rapporto molto stretto su questo piano. A un certo punto nella confusione di quegli anni si incontrano, perché non si vedevano da tempo, perché durante l'esilio svizzero sono separati totalmente, si vedono un'unica volta, e mio padre, che è comunque un ragazzo, ha bisogno della guida di mio nonno e gli dice: ma senti, questa cosa qui secondo te come andrà a finire? E lui dice: quando tutto questo sarà finito forse capiremo. Quindi ho usato questo tipo di frase come un augurio, appunto, che anche il fatto di raccontare queste cose, di sciogliere questi nodi, certo, possa contribuire a far finire questi fantasmi, perché poi si tratta soprattutto di fantasmi che accompagnano la coscienza di molte persone. Allora, noi siamo in chiusura. Io voglio ringraziare tantissimo Joelle Dix. Quando tutto questo sarà finito, lo trovate in libreria, ovviamente edito da Mondadori. Mi ha fatto anche la dedica dicendo: guarda, io te la faccio a Alessandro Milan, però Alessandro lo scrivo in grande, Milan in piccolino, perché sono interista. Vabbè, insomma, dobbiamo anche passare attraverso questo. Ringrazio tutti, ovviamente. Sono abituati i nostri ascoltatori ad ascoltare di politica, di cose. Oggi sono contento di aver raccontato qualcosa di diverso attraverso lo sguardo profondo di un libro che è anche un libro ben scritto. Questo non sta a me a giudicarlo, oltre ad essere una storia molto intensa. Ti ringrazio. E adesso provvederò a ringrandire quel Milan, perché era troppo piccolo, effettivamente. Dopo quello che hai detto, solo per siete tutti in macchina, lo so, ci ascoltate, e il vostro automobilista incazzato, vi saluta. Sì, assolutamente, state tranquilli. State tranquilli. Ma non ci riuscirete, lo state so. State sereni. È impossibile. Grazie a Gioele Dix, ovviamente. Grazie a tutti, ci sentiamo domani alla stessa ora, 6:30, state con noi.